Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sono assolutamente felice di essere qui, ma soprattutto sono orgoglioso di essere stato scelto a rappresentare una delle nazioni più importanti dal punto di vista calcistico. Felicità e orgoglio dunque, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, per il nuovo allenatore della Nazionale di Calcio, Giampiero Ventura, che avete appena sentito nella conferenza stampa di Coverciano. E d'altronde, come potrebbe essere altrimenti, no? Nel suo ruolo, non essere felici e orgogliosi. Questa è una delle notizie del giorno, quindi l'avventura, l'inizio dell'avventura di Ventura, ma lasciamolo alle sue soddisfazioni, e vi anticipo invece gli altri temi, che sono purtroppo di ben altro tenore, perché parleremo delle nuove epurazioni di massa del presidente turco Erdogan in Turchia dopo il fallito golpe, l'ufficializzazione delle vittime italiane della strage di Nizza, poi gli autoproclamatisi attivisti dell'ISIS, la convention americana, dove più che Trump nelle ultime ore la protagonista è stata la moglie Melania, ma sembra non per aspetti particolarmente positivi. E per tutti questi temi, naturalmente, lo sapete, potete esprimere le vostre riflessioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al numero 349 238 6666, 349 238 6666, per WhatsApp, SMS, se no la pagina Facebook di Effetto Notte. Prima di tutto, però, come sempre qui all'inizio della puntata, un quadro della giornata. Turchia, epurazioni di massa nel mirino dopo militari, magistrati e dipendenti pubblici, il mondo dell'istruzione, ma anche molti imam sospettati di legami con la rete che fa capo al predicatore sunnita Gulen. La strage di Nizza, identificate le 6 vittime italiane, tra i morti i musulmani sono oltre un terzo, e intanto è stato rivendicato dall'ISIS l'attacco di ieri su un treno in Germania. La Brexit spaventa, il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime per l'Italia, ma anche quelle del resto del mondo. Intanto il Ministero del Lavoro lancia un'iniziativa contro la povertà, 320 euro al mese in media per circa 200.000 famiglie in difficoltà. Stati Uniti, a Cleveland la convention per l'incoronazione di Trump, ma il caso è la moglie Melania, accusata di aver plagiato il discorso che fece Michelle Obama. Operazione anti-andrangheta alle mani delle cosche sul Terzo Valico, a sostegno del comitato del sì per favorire la TAV. Olimpiadi di Rio, sul bando della Russia per doping, il CIO prende tempo. E per il calcio, Giampiero Ventura, il nuovo CT della Nazionale, riparto dalla squadra dell'Europeo, poi la svecchierò, dice, sono avvantaggiato grazie a Conte. Partiamo quindi dalla situazione in Turchia. Dopo il fallito golpe di venerdì, continua la repressione del presidente turco Erdogan, che procede con le epurazioni di massa dopo migliaia di arresti, di licenziamenti nei confronti di militari, magistrati, dipendenti pubblici. Ora nel mirino ci sono gli insegnanti, tutto il mondo dell'istruzione e anche diversi imam. Poi ne parleremo tra poco collegandoci direttamente con Istanbul. Parliamo anche purtroppo di terrorismo, con l'incubo in Europa dei lupi solitari. In Francia ci sono stati 2 episodi poco chiari. Gli ultimi aggiornamenti ce li dà Adriano Palazzolo. Buonasera, cominciano a chiarirsi i contorni di quanto sta succedendo a Boyenne, vicino ad Avignone, dove un uomo, lo ricordiamo, si è serragliato in un hotel, e le teste di cuoio sono immediatamente giunte sul posto avviando i negoziati con l'individuo, che secondo alcune fonti sarebbe uno squilibrato. È armato di coltello con un pacco sospetto. Le precauzioni in Francia in questi giorni sono al massimo. L'autostrada quindi nei pressi dell'albergo è stata chiusa al traffico e un elicottero è stato visto sorvolare la zona. Sul posto ci sono unità speciali, le cinofile, anche il prefetto e i pompieri. L'hotel è stato completamente evacuato. Secondo indiscrezioni, l'uomo si è rifiutato di pagare il conto, ma al momento non ci sono dettagli su questa notizia. Il secondo episodio della giornata è accaduto questa mattina in un villaggio vacanze sulle Alpi francesi, a La Gran. Qui un uomo di 37 anni ha accoltellato una mamma e le sue 3 figlie. Nessuna delle 4 è in pericolo di vita. L'uomo è un musulmano praticante originario del Marocco e conosce la famiglia delle persone aggredite. In un primo momento, secondo quanto riferito dai testimoni, sembrava che a scatenare la furia dell'uomo sia stato l'abbigliamento delle sue vittime. Indossavano abiti troppo leggeri, aveva detto, ma il procuratore incaricato di indagare sull'accoltellamento ha smentito fermamente questa voce. Per ora è tutto. Grazie ad Adriano Palazzolo. Intanto vedo dalle agenzie che in Francia si va probabilmente verso misure speciali fino al 2017, misure speciali che consentono tra l'altro fermi a tappeto, l'obbligo di residenza per individui a rischio, perquisizioni senza preavviso, ma anche la possibilità di controllare i dati elettronici di computer e telefoni cellulari senza l'autorizzazione di un giudice. E poi a proposito di ISIS, è stato rivendicato a proposito di terrorismo dall'ISIS anche l'attacco di ieri sera su un treno in Baviera. Il franchising del terrorismo mostra ancora una volta tutto il potenziale che è in grado di esercitare sui soggetti più fragili e instabili psicologicamente. Quella che state ascoltando è la voce di Muhammad Riad, il 17enne afghano che ieri sera su un treno regionale bavarese ha aggredito a colpi d'ascia e coltello un gruppo di turisti di Hong Kong, ferendo 5 persone, di cui 2 in modo gravissimo, prima di dire alla famiglia tedesca che lo aveva in affidamento che sarebbe uscito a farsi un giro in bicicletta, si è filmato con un coltello in mano definendosi un soldato del califfato pronto a condurre un attacco da martire in Germania. Il tempo è arrivato, ha concluso, non prima di lanciare minacce deliranti contro l'Occidente e promettendo di compiere un attacco in grado di far dimenticare le attentate in Francia. Ha quindi inviato il video all'ISIS, che lo ha pubblicato online. La corsa del giovane kamikaze si è invece fermata a qualche centinaio di metri dal treno, dove aveva, per motivi da chiarire, preso di mira un gruppo di turisti orientali. Le unità speciali presenti casualmente nella zona hanno messo fine alla sua follia dopo che aveva provato a lanciarsi anche contro 2 agenti. La 17enne si era radicalizzato da poco, spiega il procuratore capo Eric Olenschlega in conferenza stampa. Musulmano credente, era arrivato da rifugiato un anno fa a Passau. Forse a scatenare la sua follia è stata la notizia della morte di un amico in Afghanistan. Nella sua stanza ha lasciato una lettera d'addio per il padre insieme ad attestati di fedeltà all'ISIS. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il terrorismo dovrebbe essere il tema anche di questa seconda giornata a Cleveland, negli Stati Uniti, della convention repubblicana per incoronare ufficialmente Donald Trump come candidato appunto alla Casa Bianca per i repubblicani. Secondo giorno, appunto, il tema terrorismo, anche se doveva essere trattato ieri, ma ieri la protagonista è stata la moglie di Donald Trump, Melania, che pare sia stata accusata di aver plagiato, copiato quello che fu il discorso di Michelle Obama quando si insediò appunto Barack Obama. Poi ci collegheremo direttamente con Cleveland e ci faremo raccontare i particolari. Brexit adesso, dal Fondo Monetario Internazionale arriva il taglio delle stime economiche globali e per l'Italia. In un rapporto OCSE e Fondo Monetario Internazionale vengono messe a nudo anche le debolezze del sistema fiscale italiano. La Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, peserà sulla crescita dell'Italia. Lo dice il Fondo Monetario Internazionale, che ha rivisto all'ingiù la crescita del prodotto interno lordo italiano. Nel 2016 si fermerà allo 0,9% e non all'1% come previsto in aprile. Anche nel 2017 il PIL italiano aumenterà dell'1% e non dell'1,1% stimato dalle ultime previsioni dell'organizzazione. Effetti negativi anche per la crescita mondiale, che nell'anno in corso frena di 0,1 punti percentuali al 3,1%. Il Regno Unito paga l'uscita dall'Europa con un PIL in calo all'1,7%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto alla stima di aprile. Fondo Monetario Internazionale e OCSE, inoltre, su incarico del Ministero dell'Economia, hanno anche stilato 2 documenti sul sistema fiscale italiano. Le conclusioni concordano. Bisogna ridurre l'evasione fiscale, soprattutto quella sull'IVA, attestata al 30%, riorganizzando il sistema delle dichiarazioni, ora annuale, su base mensile. E per il Ministro dell'Economia, Padoan, le tasse vanno abbassate. La pressione fiscale si deve ridurre e che quando si pagano tasse lo si deve fare nel modo più semplice e più facile possibile. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E contro la povertà il Ministero del Lavoro lancia il sostegno per l'inclusione attiva, una misura destinata alle famiglie in difficoltà che in media dovrebbero assicurare 320 euro a nucleo, coprendone 180-220.000 di queste famiglie, per un totale di beneficiari pari a circa 800.000, un milione di persone, metà delle quali minorenni. La richiesta per ottenere l'aiuto potranno essere presentate a partire da inizio settembre. Sentiamo a questo proposito il ministro Poletti. Le famiglie che hanno al proprio interno dei minori, quindi dei ragazzi, e quelle situazioni dove c'è una persona disabile oppure c'è una madre in attesa, quindi che avrà a breve un figlio. Questi soggetti naturalmente vanno selezionati sulla base di una serie di parametri, a cominciare dal reddito e quindi dall'ISEE, e abbiamo cercato di costruire una valutazione che metta in campo più di un elemento proprio per andare a centrare l'obiettivo di aiutare quelli che hanno più bisogno. E la politica italiana oggi, la giornata di oggi, è stata dominata anche in particolare dalla minoranza del PD e dal passo indietro fatto da Schifani nel nuovo centrodestra. Una lunga lettera ai colleghi senatori e poi una conferenza stampa. Schifani fa un passo indietro, si dimette da capogruppo di Area Popolare al Senato. Una scelta, spiega, ponderata, che nasce dal grande gelo con il ministro dell'interno Alfano e dalla convinzione che il ruolo del nuovo centrodestra al governo sia finito con il varo delle riforme. Siamo entrati nel governo Renzi senza un programma. La responsabilità è nostra di non averlo fatto. Quando entri in un governo senza un tuo programma è tutto più complicato. Schifani non si sbilancia sul suo futuro. Uscire dal nuovo centrodestra, valuterò, dice, anche se per molti sarebbe solo questione di tempo. Altro capitolo, quello della legge elettorale. La minoranza PD presenta le sue proposte di modifica dell'Italicum. Un Mattarellum 2.0, spiega Speranza, per riequilibrare governabilità e rappresentanza e dare diritto di tribuna ai partiti più piccoli. Un contributo politico perché si apra una discussione vera, a partire dal PD. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E passiamo adesso all'operazione anti-andrangheta, in cui sono state scoperte infiltrazioni delle cosche fino in Liguria. Oggi ci sono stati 4 arresti, coinvolti anche dei politici, e di questo parleremo più tardi qui Effetto Notte. C'è anche il caso Regeni, se ne torna a parlare perché la commissione parlamentare trilaterale egiziana sul caso Regeni ha confermato il rifiuto a condividere con l'Italia una parte dei materiali dell'inchiesta con i nostri inquirenti. Anche dal Parlamento egiziano arriva un nuovo no all'invio dei documenti chiesti dagli inquirenti italiani che indagano sull'omicidio di Giulio Regeni. A comunicarlo con una nota è stato il deputato Tarek Al-Khali, segretario della Commissione Esteri della Camera egiziana. Al termine di una riunione congiunta, le Commissioni Esteri, Difesa e Diritti Umani del Parlamento del Cairo oggi hanno definito incostituzionali le richieste avanzate dalla Procura di Roma, tabulati telefonici, immagini di alcune telecamere di sicurezza, ma anche l'estradizione di 3 persone che viene invece negata dagli investigatori italiani, secondo i quali i materiali richiesti sono utili a far luce sulle ultime ore di vita del giovane ricercatore italiano rapito, torturato ed ucciso al Cairo con modalità che lasciano pensare ad un omicidio di Stato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora la morte di Clara Agnelli. È morta a 96 anni, figlia di Edoardo e Virginia Bourbon del Monte. Clara Agnelli, sorella maggiore di Gianni e degli altri fratelli, è morta all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove era ricoverata da alcune settimane. Si era sposata col principe Tassilo von Wustenberg, morto a metà degli anni 80. Dalle nozze erano nati 3 figli, Ira, Egon e Sebastiano. Si era poi risposata in forma privata col conte Giovanni Nuvoletti nel dicembre del 1989. Parliamo anche di unioni civili. Le coppie dello stesso sesso che si vorranno unire civilmente potranno prenotare le loro cerimonie a Bologna in attesa dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della legge sulle unioni civili e convivenze di fatto. Il comune ha fatto questa scelta per farsi trovare pronto. Le coppie che vogliono prenotare le celebrazioni potranno utilizzare da domani la casella di posta elettronica, i numeri di telefono dell'ufficio matrimoni. Per volere del sindaco di Bologna Virginio Merola, inoltre, le unioni civili verranno celebrate in Sala Rossa a Palazzo D'Accursio, dove si tengono tutti i matrimoni. Per chiudere lo sport, niente bando olimpico per ora nei confronti della Russia. L'esecutivo del CIO, del Comitato Internazionale Olimpico, ha deciso di rinviare una sentenza definitiva sul caso doping di Mosca, aprendo una formale procedura disciplinare nei confronti delle persone coinvolte nel rapporto WADA. E poi il calcio, presentato a Coverciano il nuovo tecnico della nazionale, Giampiero Ventura, felice e orgoglioso, come avete sentito all'inizio, così si è definito. Sono orgoglioso. Orgoglioso di essere stato scelto a rappresentare una delle nazioni più importanti dal punto di vista calcistico. Ringrazio anch'io Antonio Conte, lo ringrazio perché mi ha lasciato innanzitutto una squadra. L'Europeo ci ha dato la consapevolezza che attraverso l'organizzazione, attraverso le conoscenze, attraverso la compattezza, attraverso la disponibilità, si possono raggiungere risultati importanti. Io e il mio staff naturalmente abbiamo una grande voglia di essere e diventare protagonisti insieme alla squadra. E questo è Giampiero Ventura. Adesso però ci fermiamo brevemente per aggiornare chi sta viaggiando. Voi intanto potete continuare a mandare i vostri messaggi sui temi del giorno di questa puntata di Effetto Notte al 349-238-6666, che è il numero per i WhatsApp, per gli SMS, oppure c'è sempre lì per voi comodamente giorno e notte la pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre riflessioni. Per esempio c'è Giorgio che scrive: finalmente Erdogan può diventare un dittatore anche di nome, oltre che di fatto, piccoli tiranni crescono. Stefano dice: poi Gentiloni parla anche di entrata in Europa della Turchia, anche se ieri molti hanno frenato, anche Mogherini, l'altra rappresentante della politica estera in Europa, ha detto fa parte naturalmente dei nostri rapporti, all'interno dei rapporti stretti con l'Unione Europea, però tutti hanno un po' frenato, nel senso che dicono se reintrodurrà di nuovo Erdogan la pena di morte sarà fuori dall'Europa. Però è chiaro che sempre per questioni di reciproca convenienza poi i rapporti si devono mantenere, diciamo, da un punto di vista diplomatico il più equilibrati positivi possibili. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco cominceremo a approfondire i vari argomenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi. Adesso vi ricordo brevemente le notizie più importanti della giornata, poi cominceremo a approfondire alcune delle principali. Turchia, epurazioni di massa via insegnanti, rettori, imam sospettati di legami con la rete che fa capo al predicatore sunnita Gulen. E poi ISIS rivendica l'attacco in Germania, il nostro combattente. E poi vicino ad Avignone in Francia un marocchino accoltella madre e tre bimbe perché le accusa di avere abiti troppo succinti. Sono sei le vittime italiane della strage di Nizza, c'è stata l'identificazione ormai definitiva, e tra i morti una trentina di musulmani. Trump a Cleveland per l'incoronazione, ma il caso vero è sua moglie Melania, che dice: mio marito è l'uomo giusto. Due frasi come quelle di Michelle Obama, accusata di plagio. Brexit, la Brexit spaventa, il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita per l'Italia, ma anche per il mondo intero. Intanto il governo italiano per la lotta alla povertà stanzia questi 320 euro per 200.000 famiglie. Caos centristi per la politica italiana, Schifani si dimette da capogruppo del nuovo centrodestra e intanto la sinistra PD lancia le sue modifiche per l'Italicum. Le mani dell''ndrangheta sul terzo valico, politici indagati, sostegno delle cosche al comitato del sì per favorire la TAV, di questo anche parleremo, e poi il CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, che rinvia sul doping russo, dice per ora niente stop. Parliamo di nuovo naturalmente del colpo di Stato fallito in Turchia venerdì sera, quel colpo di Stato molto particolare durato 4 ore. Il presidente Erdogan prosegue con le epurazioni di massa dopo le migliaia di dipendenti pubblici, di funzionari, di poliziotti, di ufficiali dell'esercito arrestati o licenziati su due piedi. Oggi sono state chieste le dimissioni di tutti i rettori delle università, si tratta di circa 1600 persone, anche se poi in serata è arrivata questa precisazione, si tratta di decani e non di rettori, cioè sono ruoli ancora più di vertice. Poi sono stati sospesi 15.200 insegnanti delle scuole pubbliche, licenziati 21.000 docenti delle scuole private. Insomma, Marco Barbonaglia, ciao Marco, da Istanbul. Buonasera. Marco, adesso nel mirino c'è il mondo dell'istruzione. Ho le ultime notizie di oggi. Io oggi sono stato anche al tribunale di Istanbul, dove ho visto forse dove è finita tutta la polizia che non c'è in giro per le strade, perché il tribunale è completamente blindato, e questo fa capire che la polizia dove deve esserci anche in questo momento c'è, non è una città fuori controllo, anche se presidia poco le altre aree. Ma in questo momento, proprio mentre stiamo parlando, c'è una grande manifestazione in piazza Taksim, dove è stato montato un palco. Da uno schermo si sentono, prima si vedeva Erdogan che parlava, e a questa manifestazione, questo non l'ho visto con i miei occhi, ma ho visto le immagini poco fa, c'è stata anche è stata bruciata una bambola, un fantoccio con le fattezze di Fethullah Gülen. Che spieghiamo che personaggio è, Marco, perché adesso Erdogan e diciamo i suoi fedelissimi danno colpa a questo predicatore sunnita che però è da anni negli Stati Uniti, questo Gulen, no? Sì, Dunque, vabbè, innanzitutto specifico la bambola, da quello che posso vedere, è stata bruciata da alcuni, ovviamente non è nulla di organizzato a livello governativo, è qualcosa di fatto dai manifestanti. Detto questo, Fethullah Gülen è un personaggio discusso, è stato proprio oggi una giornalista del gruppo Doğan con il quale stavo parlando, quindi un gruppo del principale giornale laico del paese, Hürriyet l'ha definito oscuro, definizione nella quale personalmente mi trovo d'accordo. Fethullah Gülen è un personaggio che, visto dalla Turchia, in Turchia è difficile trovare qualcuno pro o contro Erdogan se non si parla con un gülenista che sia favorevole a Gülen. Perché Gülen è un personaggio, certamente lui è portatore di un Islam moderato, non è un estremista, non è questo il problema. Il problema è che Gülen ha fondato una struttura estremamente potente, estremamente ricco, vive negli Stati Uniti d'America, e quindi quello che tanti si chiedono è come mai quest'uomo, se vuole fare politica, non entra in politica ma manovra i suoi uomini dagli Stati Uniti. Adesso sarebbe facile se fosse scappato adesso negli Stati Uniti, ma in realtà lui negli Stati Uniti ci è andato molto tempo fa, anche quando era un grande amico di Erdogan, perché in passato sono stati molto alleati. È solo dal 2013 che si è rotta questa alleanza, e lui comunque è sempre rimasto negli Stati Uniti. Ora, io non posso dire che parte abbia Gülen in questa cosa, tutti i turchi lo vedono come l'effettivo responsabile, ma io non posso ovviamente né confermare né smentire. Posso soltanto dire che è un personaggio che ha un grosso, o aveva, adesso vedremo come uscirà da questa cosa, un grandissimo potere in Turchia, un potere parallelo, insomma, come viene definito. Marco Barbonaia, però diciamo, con queste epurazioni di massa in vari settori, no? Soprattutto nei settori pubblici, ma dicevamo anche migliaia di insegnanti delle scuole private, cosa rimangono? Fruttivendoli, macellai, un po' di negozianti? Naturalmente quando si guardano queste epurazioni bisogna poi anche vedere se vengono epurati soltanto gli uomini di Gülen, per esempio, tanto per iniziare, o chi altro viene epurato in questo momento. Non è facile controllare queste cose, e certo gli insegnanti vengono colpiti, perché la prima fonte di ricchezza di Gülen sono delle scuole, in particolare lui è molto forte in quello, quindi vengono colpiti per quello. Certo è che la sensazione, poi non lo so, bisognerà vedere alla fine, è che non questo sia questo colpo di Stato abbia dato la possibilità a un uomo già potentissimo, ma mai come adesso evidentemente, qual è Erdogan, di regolare i conti un po' con chi vuole. Bisognerà vedere dove si fermerà questa cosa. Quindi ovviamente una specie di controgolpe, di vendetta che può avere il pretesto di consumare, no? A questo punto, Marco, qualcuno dice a Erdogan manca solo giusto la bomba atomica, però ricordiamo che le basi NATO ci sono. Ieri il giornale titolava non so quante bombe atomiche avrebbe lì in consegna. Ti risulta questa cosa? Ma sì, ho sentito anch'io questa notizia. Quello che posso dire è che secondo me bisogna tenere conto del fatto che questa reazione, che bisogna vedere dove finirà appunto ancora, perché siamo qui ancora tutto molto in divenire, nessuno sa cosa uscirà da tutta questa situazione, io è dal primo momento che penso che comunque questi golpisti, oltre ad aver fatto qualcosa di grave, hanno anche scatenato qualcosa che poi nessuno sa dove possa finire, perché in questo momento in Turchia, se si parla con la gente, è difficile trovare qualcuno che dica beh, tutto sommato i golpisti non erano male. Cioè in Turchia tutti sono convinti che il peggio sia stato evitato e che i golpisti fossero il peggio. Comunque poi è particolare questo, Marco, effettivamente, perché con tutte queste migliaia di persone che vengono arrestate o licenziate, poi c'è il rischio appunto che vengano condannate a morte se dovesse essere reintrodotta la pena capitale. Insomma, è strano che non ci sia una sollevazione popolare, evidentemente. Tu no, dici il consenso. Probabilmente in questo momento c'è anche paura di dire qualcosa, però io dico che essere qua ed essere un turco ancora di più che essere un osservatore straniero nella notte del golpe, per molta gente è stato veramente terrificante, nel senso che non dimentichiamo che l'ultimo colpo di Stato che hanno fatto in Turchia negli anni 80 a livello di epurazione ha avuto numeri ben più grandi di questi, poi dobbiamo vedere alla fine, per l'amor di Dio, ha avuto impiccagioni in piazza, quindi c'è la gente qui ha una memoria. E l'ultimo golpe è stato un golpe oltretutto lungi dall'essere fatto da laici, ma da Kenan Evren, che è era un reazionario che ha, secondo molti, anche aperto la strada al governo di Erdogan in qualche modo con le leggi che poi ha imposto. Quindi il colpo di Stato ha terrorizzato molto la popolazione, e quindi adesso è anche molto facile da parte del governo dire noi contrastiamo questi delinquenti in qualsiasi modo. Prima sarebbe stato ben più difficile. Marco, tu dici Istanbul o Istanbul? Perché un ascoltatore dice si dice Istanbul. Così. Sì, Istanbul. Istanbul, dici? Con l'accento sulla I? Istanbul. Sulla. Ecco, anche questa cosa è chiarita. Grazie Marco Barbonaia. Ciao Marco. Ciao. Grazie. Da Istanbul. E poi c'è Francesco da Milano che dice: cara Roberta, da che pulpito viene la predica? Gli Stati Uniti non hanno la pena di morte. Questo è vero e spesso lo si dice, anche se sono due paesi molto diversi. E in questo caso si tratta veramente di migliaia di persone epurate senza che abbiano davvero commesso qualcosa di grave. Al di là che noi ripudiamo naturalmente la pena di morte, però diciamo in questo situazione. La Turchia, le persone che sono state messe in prigione, chissà magari che cosa stanno subendo, sono state epurate semplicemente perché si sospetta che lontanamente possano essere legate a questa rete di questo Gulen che vive negli Stati Uniti. Insomma, mi sembrano dei pretesti così un po' campati per aria. E poi Sergio da Napoli dice: il cavallo di Troia non deve entrare in Europa, quindi dice, naturalmente si riferisce alla Turchia. Voi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte a scrivere le vostre riflessioni, oppure al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. Vorrei che da qui tutti insieme mandassimo un pensiero a Carla, a Maria Grazia, a Gianna, a Angelo, a Mario e a Nicolas, che sono i 6 italiani che hanno perso la vita a Nizza, e insieme con tutti gli altri che sono stati falciati via da quella follia atroce, potessimo prendere un impegno che il modo migliore per ricordare le vittime del terrorismo, le vittime della follia, le vittime del jihadismo, il modo migliore per ricordarle sarà quello di vivere con ancora più intensità. E Renzi ha ricordato in questo modo le vittime della strage di Nizza, le vittime italiane, perché oggi è stato il giorno in cui sono stati ufficializzati i nomi degli italiani che sono morti in quella strage. 5 italiani più un ragazzo, un ventenne italo-americano, 5 italiani che erano dispersi fino, almeno le famiglie hanno sperato davvero fino all'ultimo, e poi oggi, questa mattina, queste speranze sono spente del tutto, perché sono stati appunto dati i nomi, che sono quelli di Carla Gaveglio, di 48 anni, di Piasco, in provincia di Cuneo, e coniugi Giovanna Musette, di 68 anni, e Angelo D'Agostino, di 71, di Voghera, in provincia di Pavia, i loro amici Mario Casati, di 90 anni, e Maria Grazia Ascoli, di 77 anni, milanesi, al quale poi si aggiunge appunto questo ragazzo americano, Nicholas Leslie, italo-americano di 20 anni, che è nato in Italia, ma poi è sempre vissuto negli Stati Uniti. Quindi un giorno di disperazione e anche di rabbia dei familiari. Ne parliamo con Andrea Galli, giornalista del Corriere della Sera, inviato a Nizza. Buonasera Andrea. Buonasera a voi. Senti, poi stanno emergendo man mano dalle agenzie i racconti, le storie di queste persone, no? Perché qualcuno ogni tanto si irrita del fatto che ci si crogioli un po' nelle storie delle vittime, degli attentati, delle stragi, però è anche un modo, se ovviamente non si indugia eccessivamente, di ridare un po' di dignità a quelli che non devono restare soltanto dei corpi nelle celle frigorifere, no? Sì, direi di sì, perché comunque rimane, come le precedenti, una strage di innocenti, no? Secondo me, noi siamo qui da subito con i nostri colleghi, non è neanche giusto poi affidarsi solo al numero 84 anziché 30, dire sono stati 84 morti, perché sono comunque tutte persone che soprattutto hanno delle storie dietro, e hanno qua tutte le famiglie che sono incappati poi anche nella burocrazia, loro dicono nella burocrazia degli attentati, nel senso che per esempio dopo Bataclan i francesi avevano sbagliato a consegnare alcune salme e allora per esempio dopo questo attentato c'è stato un rigore, secondo alcuni eccessivo, ma i francesi hanno detto che si doveva fare così per forza, che le salme andavano consegnate solo dopo l'identificazione e solo dopo la prova del DNA. Quindi noi siamo stati insieme a queste persone che ovviamente presumevano che i loro cari fossero morti, però nel momento in cui chiedevano notizie sui loro familiari veniva risposto: finché non c'è l'identificazione non possiamo dirti se è morto, se è ferito gravemente, se è in un altro ospedale. E ieri sera, dopo che è stata diffusa la notizia dell'identificazione di Mario Casati, sentendo anche tutti gli altri familiari, sono praticamente cadute tutte le speranze, perché era altamente probabile che poi era in corso l'identificazione appunto di tutti gli italiani, che difatti poi oggi sono state rese note e ufficializzate. Mario Casati, vi hai ricordato che aveva 90 anni ed era insieme alla sua compagna, erano vedovi tutti e due, ma avevano ritrovato l'amore, no? La speranza in una vita, anche nonostante l'età, insomma, amavano viaggiare, erano venuti a passare qualche giorno qui a Nizza, così anche l'altra coppia, Angelo e Gianna, sì, che avevano di Voghera. Sì, l'altra coppia, quella di Voghera, aveva intenzione di fermarsi a lungo perché dovevano festeggiare finalmente la pensione del signor Angelo D'Agostino. Mm. E quindi altre estate si concedevano meno giorni perché poi bisognava tornare al lavoro, e adesso invece avrebbero dovuto fermarsi forse 2, 3, addirittura 4 settimane. Erano appena arrivati, come erano appena arrivati Mario e Graziella 2, 3 giorni prima, ed erano molto amici, perché molti degli italiani di Nizza comunque poi frequentano gli stessi posti, le stesse spiagge, quindi si conoscono tutti tra di loro, e poi durante le varie estati nascono forti amicizie. E difatti è stata forse l'unica cosa positiva, dicevano i familiari, il fatto che lì hanno cercato tutti di darsi una mano. Insomma, è stata una grande famiglia che ha cercato di tirarsi poi in piedi in questi giorni assolutamente di strazio, che poi non sono ancora finiti, perché adesso c'è tutta la lunga parte burocratica per restituire le salme, poi, no Andrea? Sì, durerà ancora tutta domani, molto probabilmente si spera che dopo domani si sblocchi l'iter burocratico. I nostri uffici consolari hanno detto che adesso le procedure saranno molto molto molto più rapide, quindi almeno si spera che riescano ad andare via a breve. Senti, tra l'altro divampata ancora una volta la polemica sulla sicurezza, no? Il fatto che questo uomo, con questo killer, con questo camion gigantesco, sia passato semplicemente dicendo che doveva consegnare dei gelati, e pare che i familiari di alcune vittime hanno annunciato l'intenzione proprio di denunciare lo Stato francese e il comune di Nizza, in quanto ritengono che questo dispositivo messo in campo per la festa nazionale del 14 luglio, che ricordiamo per la Francia è un'enorme importanza, la presa della Bastiglia 1789, non fosse all'altezza di questa minaccia, e quindi sembrerebbe che ci sia sullo sfondo proprio una class action, cioè una causa di massa. Sì, confermo, così ci sarà, e stanno sentendo le famiglie anche di differenti nazioni, e molto probabilmente procederanno tutti per la stessa strada. Per quanto concerne prevederlo o riuscire a fermarlo, è sempre tutto, cioè, è difficile da dire dopo. C'erano comunque un centinaio di uomini delle forze dell'ordine, pare che comunque non sia stata sottovalutata, ovviamente, anche perché era il 14 luglio. Si può poi discutere su come sia stato possibile che sia passato il camion, però se ci sono stati degli errori, nel senso che lui comunque si è fermato, ha detto che doveva consegnare i gelati, ed era poco plausibile che un tipo del genere potesse entrare poi in un luogo affollato per consegnare i gelati. Vero è che poi molti sono deceduti sia perché travolti dal camion, ma sia anche perché c'era una enorme ressa, quindi sono state anche persone morte schiacciate, bambini, molti anziani che magari avevano problemi di deambulazione e non sono riusciti a lanciarsi sulla spiaggia. È difficile, nel senso, le forze dell'ordine ti dicono che è difficile, cioè è difficile, a volte quasi impossibile prevederlo. Grazie Andrea Galli del Corriere della Sera, grazie e buon lavoro. Grazie Andrea. A voi, grazie a voi, buonasera. Ciao. Adesso ci prendiamo questa breve pausa di ricreazione, voi continuate a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666 le vostre riflessioni sui fatti che stiamo raccontando, sulle notizie del giorno. Francesco per esempio scrive: Erdogan cercava un pretesto per instaurare la sua dittatura, non gli è parso vero che i suoi nemici gli fornissero il miglior possibile e immaginabile. A tra poco. Franco Schipani, Alessandra Fiori, buongiorno. Tintarella di luna, tintarella con un latte. Alessandra Fiori e Franco Schipani ci tengono compagnia per tutto il mese di luglio con Mix 24 Estate, raccontandoci gli anni 60 e 70 attraverso la musica e la storia. Tutte le mattine alle 9.30 su Radio 24. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando Effetto Notte per avere un quadro completo della giornata e approfondimenti su temi in particolare. Scrivete le vostre riflessioni su questi argomenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al numero 349-238-6666, che è il numero per i WhatsApp e per gli SMS. Per esempio Marco scrive: noto paura o quantomeno immotivata cautela nel dichiarare ciò che è sotto gli occhi di tutti, ovvero che il golpe è falso e che si è trattato solo di una scusa per fare un po' di pulizia da parte di quel grande statista che è Erdogan. In realtà, Marco, sono molto piuttosto divisi gli osservatori. C'è chi ha avanzato questa ipotesi che l'abbia fatto è stato un autogolpe per rafforzarsi ulteriormente, avere il pretesto appunto per queste epurazioni e per usare ancora di più il pugno duro, e chi dice no, sembra strano, insomma, che lo abbia fatto. Probabilmente nelle forze armate c'è stata un po' di confusione, non un consenso così allargato per decidere un'azione più incisiva. In ogni caso, oggi il portavoce di Erdogan ha detto a questo proposito: se non era un colpo di Stato, allora che cos'è? E come sostenere, ha detto che l'11 settembre sia stato orchestrato dagli Stati Uniti o gli attentati di Parigi o di Nizza dal governo francese. Questa è la risposta piccata che ha dato il portavoce. Però adesso vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti della giornata e poi torneremo ad approfondire, continueremo a approfondire gli argomenti. Turchia, epurazione di massa nel mirino dopo militari, magistrati e dipendenti pubblici, il mondo dell'istruzione ma anche molti imam sospettati di legami con la rete che fa capo al predicatore sunnita Gulen. La strage di Nizza, identificate le 6 vittime italiane, tra i morti i musulmani sono oltre un terzo e intanto è stato rivendicato dall'ISIS l'attacco di ieri sul treno in Germania. La Brexit spaventa, il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime per l'Italia ma anche quelle del resto del mondo, intanto il Ministero del Lavoro lancia in Italia un'iniziativa contro la povertà, 320 euro al mese in media per circa 200.000 famiglie in difficoltà. Stati Uniti a Cleveland alla convention per l'incoronazione di Trump, ma il caso è la moglie Melania accusata di aver plagiato il discorso che fece Michelle Obama. Operazione anti-andrangheta, le mani delle cosche sul terzo valico a sostegno del comitato del sì per favorire la TAV. Olimpiadi di Rio sul bando della Russia per doping, il CIO prende tempo. E per il calcio Giampiero Ventura, il nuovo CT della nazionale, riparto dalla squadra dell'europeo, poi la svecchierò, dice, sono avvantaggiato grazie a Conte. E adesso parliamo di questa nuova operazione anti-ndrangheta, dopo quella della scorsa settimana, vi ricordate, ne abbiamo parlato, l'operazione dei giorni scorsi che aveva fatto emergere questa cupola che influenzava affari e politica, e tra gli indagati ci sono Giuseppe Scopelliti e Pietro Fuda, che sarebbero stati eletti rispettivamente sindaco e presidente della provincia di Reggio Calabria nel 2002 grazie ai voti dell'andrangheta. Questa volta nell'operazione che è stata resa nota oggi a finire nei guai è il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco D'Agostino, che è una delle persone indagate in stato di libertà nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria per infiltrazioni negli appalti del terzo valico. Nei confronti di D'Agostino viene ipotizzato il reato di intestazione fittizia di bene aggravata dall'avere agevolato l'andrangheta. In questo momento però non sarebbe indagato, come ci conferma il nostro Roberto Galullo del Sole 24 Ore. Ciao Roberto, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Roberto, quindi una nuova operazione non riguarda però soltanto la Calabria, no? Anche in questo caso. No, anche in questo caso diciamo che la madre è sempre la Calabria, vale a dire l'origine delle infiltrazioni, ma qui con questa operazione parliamo invece di quelle che sono state le radici messe all'interno delle attività economiche e imprenditoriali della Liguria. Quindi c'è una matrice comune, una base che è sempre la stessa, vale a dire la Calabria, ma poi su per gli rami le cosche arrivano ovunque. Questa volta appunto le cosche, l'una di Cittanova, l'altra di Palmi, entrambe in provincia di Reggio Calabria, si sarebbero infiltrate in moltissime delle attività liguri, non soltanto nei subappalti per la realizzazione di alcune tratte ferroviarie del Terzo Valico, ma la cosa sorprendente è che questa nuova operazione mette in luce che gli interessi dell'andrangheta sono assolutamente vari e variegati, addirittura pensa nella produzione e commercializzazione di lampade a LED, ormai non c'è più limite a nulla. Davvero. Roberto Galullo, quindi come dici tu, non solo non si è riuscita a sconfiggere negli anni la criminalità organizzata, mafia, camorra, anche se adesso forse di mafia si parla meno, ma l'andrangheta è riuscita, proprio come ci spiegavi, a infiltrarsi anche in settori e in altre regioni rispetto a come poteva essere magari un po' più confinata nel passato, no? Quindi anzi si è evoluta e è diventata anche più potente. Ma questo assolutamente sì, ormai sono tantissimi anni che i capitali sporchi, vale a dire la potenza straordinaria finanziaria dell'andrangheta, ha avuto il meglio su Cosa Nostra. Ma tu prima citavi l'operazione Mamma Santissima, così si chiama, di venerdì scorso, sì, sempre della DDA di Reggio Calabria, seguita direttamente in prima persona dal capo della procura Federico Casiero Di Rao e dal sostituto Giuseppe Lombardo. Ebbene, questa indagine è straordinaria perché? Perché per la prima volta dimostra, poi sarà un'aula di giustizia fino ad eventuale sentenza passata in giudicato a mettere il sigillo, ma certo, intanto mette in evidenza che la forza straordinaria dell''Ndrangheta è stata soprattutto alimentata da due fattori. Il primo è essersi consorziate in tempi non sospetti in una, diciamo così, in una confederazione con Cosa Nostra, Camorra e Sacra Corona Unita. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto che ha alimentato, che ha dato una benzina continua, un propellente continuo all''Ndrangheta, è stata proprio la cupola di riservati e invisibili alla quale tu prima facevi riferimento, vale a dire persone insospettabili, sfiorate magari nel passato anche da indagini, che erano in grado di gestire non soltanto i rapporti con l''Ndrangheta, ma influenzare l'attività economica e soprattutto l'attività politica. Il capo della Procura, Federico Casero De Rao, ha detto la scorsa settimana in conferenza stampa: questa cupola allevava politici, non soltanto politici per le comunali, ma per le provinciali, regionali, Parlamento nazionale e persino per il Parlamento europeo. Chi si comportava bene, vale a dire assecondava i desideri e le scelte di questa cupola, andava avanti, gli altri venivano fatti fuori, anche essendo costretti a dimettersi o a cadere politicamente perché non erano più in grado di dare garanzia a questa cupola. Quindi addirittura un vivaio coltivato in proprio, insomma. Assolutamente un vivaio. Questo qui emerge anche da alcune indagini della Procura della Repubblica di Palermo degli anni scorsi. Nino Di Matteo, procuratore aggiunto, questo lo ha spesso spiegato nel passato, che accade anche in Sicilia. Incredibile. Grazie Roberto Galullo del Sole 24 Ore, buon lavoro. Ciao, buonasera a tutti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi, sempre con me anche il vostro ascolto, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Questa è la pagina Facebook e il numero di WhatsApp e SMS per le vostre riflessioni sui temi del giorno e quelli che sto trattando insieme agli ospiti qui a Effetto Notte. Ringrazio Giuseppe per il suo messaggio. Mentre scrive per esempio Grazia da Novara: ma come la pensano i turchi che sono in Italia? Effettivamente è una buona domanda, sarebbe interessante saperlo, anche se è vero che vivere poi in un'altra nazione rispetto a quella di origine comporta sempre un punto di vista diverso che può essere interessante, ma quando ormai sei lontano forse dalla tua patria, però sarebbe interessante saperlo. Marco scrive: Erdogan è un megalomane spregiudicato le cui decisioni sono imprevedibili e dettate solo dalla sua brama di potere, non ha esitato a tentare di coinvolgere la NATO in una guerra con la Russia, a sostenere l'ISIS, a distruggere le distensioni con i curdi, massacrare giovani ecologisti che difendevano un parco. Questo è il messaggio di Marco. Adesso vi ricordo molto velocemente, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. Appunto, la Turchia, epurazioni di massa, via insegnanti, rettori, imam sospettati di legami con la rete che fa capo al predicatore sunnita Gulen che sta negli Stati Uniti. L'ISIS rivendica l'attacco in Germania, sul treno un nostro combattente. Poi oggi vicino ad Avignone in Francia un marocchino ha coltellato madre e tre bimbe, l'ultima, quella di 9 anni, in situazione molto, in condizioni molto gravi, le ha accusate di avere abiti troppo succinti. Sono 6 le vittime italiane della strage di Nizza, l'identificazione è stata completata e sono una trentina i musulmani tra le vittime. Trump a Cleveland per l'incoronazione, per la sua convention, ma il caso è Melania, la moglie. E poi Brexit spaventa il Fondo Monetario Internazionale, taglia le stime dell'Italia ma anche della crescita globale. Caos centristi per quanto riguarda la politica italiana, Schifani si dimette da capogruppo del nuovo centrodestra, la sinistra del PD lancia le sue modifiche per l'Italicum, per la legge elettorale. Le mani dell''Ndrangheta sul terzo valico, ne abbiamo appena parlato, politici indagati, sostegno delle Cosche al comitato del sì per favorire la TAV e poi il comitato internazionale olimpico che rinvia sul doping russo, per ora niente stop a Rio. Europa 24 notte. Per l'appuntamento con l'Europa, la cultura produce lavoro. Alessandra Schepisi ne ha parlato con l'europarlamentare Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura. Sappiamo benissimo che noi veniamo sia per quanto riguarda la scuola e l'università sia per quanto riguarda la cultura da anni buissimi. Io ritengo che negli ultimi anni c'è stato in Italia, non è una mia opinione, un taglio straordinario di circa, mi ricordo, vado a memoria, di 7 miliardi sulla scuola e l'università e moltissimi tagli, se non saprei quantificare, sulla cultura. E mi pare di poter dire questo, che noi abbiamo da tempo detto che nessun paese in Europa, altri paesi hanno tagliato la cultura e ora ne stanno pagando le conseguenze sotto vari profili, ma che ci sono paesi tipo la Germania che non si è mai sognata di tagliarlo anche nei momenti di recessione. Questa quindi è una questione culturale che il paese deve capire. Dal punto di vista della situazione attuale, io posso dire con soddisfazione che questa linea di tendenza ha avuto una profonda inversione. Con le risorse messe ora dall'Italia su la buona scuola e sulla ricerca da un lato, e dall'altra per quanto riguarda anche le iniziative fatte in termini sia di supporto finanziario che di diciamo agevolazioni fiscali, penso all'Art Bonus e penso al tax credit per l'industria cinematografica e audiovisiva del Ministero della Cultura, mi sembra che oggi si possa dire che è cambiata l'aria. Naturalmente non basta, per esempio io credo che noi dobbiamo spendere di più per una cosa di cui si parla troppo poco, che si chiamano borse di studio. Ecco, lì dobbiamo veramente recuperare un livello di decenza, perché oggi le borse di studio sia per i ragazzi delle scuole che per gli studenti universitari non sono, diciamo, in una entità adeguata, e questo limita, fa crescere, diciamo, la disuguaglianza fra le persone già nella scuola. A livello europeo, secondo sempre dati Eurostat, 6 milioni di occupati nella cultura, poco meno del 3%. La cultura, tra l'altro, non era nemmeno una delle 10 priorità di Juncker. Purtroppo no. Allora guardi, sto facendo una grande battaglia per il budget 2017, quindi mi invita a nozze, purtroppo, però sono nozze un po' tristi con i fichi secchi, come si dice a Roma. Allora, la cosa è questa: noi abbiamo avuto questa negativa sorpresa nella priorità della Commissione Juncker, che appunto né la parola cultura né la parola educazione sono citate. Abbiamo recuperato terreno in questi ultimo anno e mezzo con un grosso lavoro della Commissione Cultura, che ho l'onore di presiedere, perché abbiamo da una parte 2 anni fa ottenuto un 45% di risorse in più per il programma Erasmus, secondo abbiamo ottenuto anche un'attenzione molto più forte anche dopo i fatti drammatici della radicalizzazione dei giovani europei, un raddoppio delle risorse per bambini e minori rifugiati che possono accedere ai servizi educativi e alla scuola. Terza cosa, abbiamo voluto fortemente, adesso finalmente è stata presentata dalla Mogherini, che si giocasse molto di più la cultura anche nelle relazioni internazionali. Finalmente abbiamo reso una comunicazione molto importante, di cui io sono rapportore, sono relatrice nella mia commissione e che seguiremo insieme alla commissione esteri, che prevede finalmente che cultura, educazione e collaborazione nella ricerca, ma pensiamo anche nel patrimonio culturale, con tutte le distruzioni che sono avvenute, noi abbiamo un'expertise straordinaria, sarà finalmente un asse centrale delle relazioni internazionali. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora invece ci colleghiamo con Cleveland negli Stati Uniti, in Ohio, dove c'è la convention repubblicana targata Trump, che lo incorona ufficialmente come candidato per appunto ufficiale dei repubblicani per la Casa Bianca. Però il clou inizierà tra poco lì a Cleveland, naturalmente per il fuso orario. Parliamo invece della giornata che è stata, della prima giornata di cui abbiamo accennato appena ieri, che è quella di cui è stata protagonista la moglie di Trump, Melania. Tra l'altro una ascoltatrice scrive opportunamente, Alessandra, va bene, ti do ragione, dice: come da copione, essendo la moglie di, è solo Melania, non è reso noto il suo cognome, possiamo avere notizie di come si chiama quella donna? Si chiama Navs con la K iniziale, è slovena, una modella slovena di 46 anni, ex modella, germanizzata come Melania Naus. Non so se il nostro Marco Valsani da Cleveland ci conferma. Marco? Confermo tutto, assolutamente. Questa è la biografia autorizzata e veritiera. Se, ecco, per il resto della biografia invece ieri ne ha scritta una sua pagina, forse non lusinghiera, perché molti l'hanno attaccata per il fatto che avrebbe plagiato parte del discorso che fece a suo tempo Michelle Obama, l'insediamento di Barack Obama, no? E pare poi che non sia laureata, sì, che abbia raccontato bugie sulla laurea. Com'è andata? È andata un po' male per Melania, appunto, come dicevi tu, una pagina, diciamo, non proprio felice. Questo suo primo discorso, grande discorso politico, che ha detto appunto di aver preparato assieme chiaramente agli speechwriter, ai collaboratori, con passione, ecco, è venuto fuori che ha plagiato, diciamo, in modo abbastanza significativo interi passaggi del discorso di Michelle Obama nel 2008, quando appunto la prima elezione di Barack Obama, momento storico in cui Michel fece un discorso che appunto presentava il marito, il futuro presidente, come un uomo con valori sani e con una storia familiare così esemplare, e questi stessi passaggi, quasi parola per parola, si sono ritrovati così nel discorso di Melania. I repubblicani chiaramente smentiscono, vanno su tutte le furie, dicono che è colpa di Hillary Clinton, che avrebbe sollevato un polverone così ad arte, però è difficile smentire l'evidenza, cioè l'evidenza che le intere frasi sono praticamente prese e trasportate. Senti Marco, scusami, adesso vedo Hillary Clinton, una sua dichiarazione surreale, sembrava il mago di Oz, questa è la sua descrizione della convention repubblicana Cleveland, naturalmente lei è la rivale, però senti, tra l'altro non è soltanto una questione folcloristica, queste gaffe, queste cadute di stile di Melania Trump o Melania Naus, perché in realtà sappiamo che negli Stati Uniti quella che è definita la First Lady, come è stata Hillary Clinton, come Michelle Obama, è quasi un presidente ombra, no? Un ruolo molto importante rispetto a è un ruolo appunto un po', esatto, un po' dietro le quinte, un po' cerimoniale se si vuole, ma spesso molto stretto consigliere del presidente, comunque un ruolo importante anche istituzionale, quindi e soprattutto per Trump e per la sua campagna questa cosa rischia di essere comunque un problema, anche perché lui ha fatto cavallo di battaglia delle accuse a Hillary di essere crooked, di essere una liar, no? Di essere una che racconta menzogne, che è corrotta, quindi un carattere assolutamente impresentabile. Ecco, poi nel momento in cui viene fuori che invece Melania ha copiato il compito in classe, non è proprio così molto da che pulpito insomma. Però questa è una delle prime puntate, perché la convention poi andrà avanti ancora e tra poco tu seguirai il clou della seconda giornata, no? Si parlerà di terrorismo. Noi ci dobbiamo lasciare, però magari ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Marco Valsani da Cleveland, buon ascolto, buon divertimento allora. Ciao Marco. A voi. Ciao. E noi ci risentiamo per brevi aggiornamenti alle 22.